Con Francesco De Agostinis, regista del documentario Deforestazione Made in Italy, presentato in anteprima nazionale al Clorofilla Film Festival. Francesco, ben trovato. Ciao, ben trovato a te Federico. Lo presenti a chi ci ascolta? Certamente, allora, Deforestazione Made in Italy è un documentario a cui ho lavorato negli ultimi 2 anni circa. È nato da un crowdfunding che è stato fatto alla fine del 2016, in cui sostanzialmente ho lanciato questo progetto su internet e ho trovato un po' di persone che ci hanno voluto credere, soprattutto perché già allora era un argomento che interessava, il discorso della deforestazione come un causa primaria del cambiamento climatico e dei legami che ha con l'Italia, che sono cose non troppo note al grande pubblico. E da allora diciamo che è stata una serie di viaggi, una serie di piccole inchieste separate che hanno riguardato il legame fra alcune produzioni famose italiane con la deforestazione tropicale, soprattutto in Brasile, attraverso l'importazione di materie prime. Com'era partito tutto? Il tutto è partito dai numeri, perché i numeri, insomma, raccontare queste storie è fondamentale avere delle basi concrete e quindi partendo proprio dai numeri. La cosa che mi ha sorpreso, che ha sorpreso a me per primo, è stato scoprire che l'Italia in realtà ha un ruolo tutt'altro che secondario nel comprare alcune materie prime a rischio di deforestazione, si chiamano in inglese forest risk commodities, che sono in particolare la carne di manzo, che sono la soia, che sono l'olio di palma, che sono la pelle, sempre legata ai pascoli. Ovviamente queste sono tutte produzioni che vengono fatte in paesi dove insiste la deforestazione, quindi in particolare in Sud America oppure in paesi come l'Indonesia. E sono fatte per produrre delle materie prime che generalmente sono destinate all'export, quasi sempre sono queste grandi monocolture che prendono il posto della foresta, sono destinate all'export. Sono partito proprio dallo scoprire che l'Italia ha una forte voce in capitolo per questo, perché? Perché l'Italia è un paese, è un'economia che fa molta trasformazione, ma non ha materie prime, è molto dipendente dall'importazione e storicamente è molto dipendente dall'importazione di alcune materie prime da paesi a rischio, in particolare dal Brasile, quindi io su questa storia mi concentro in particolare sul Brasile e sulle importazioni che facciamo dal Brasile, dove, ahimè, ho visto con i miei occhi a che ritmo, con quale devastazione sta andando avanti la deforestazione della foresta tropicale più importante che abbiamo, che è l'Amazzonia. All'origine c'erano stati dei tuoi articoli, ecco, come hai deciso poi il passaggio all'inchiesta filmata? Ma guarda, in realtà è stato un tutt'uno, nel senso che il progetto è partito già con un'idea di fare dei piccoli video che sono stati in parte pubblicati su varie testate, la maggior parte sul sito del Corriere della Sera, che parlassero di piccole storie. Ma tutti questi video che sono stati fatti nel 2017, nel 2018 e in ultimo all'inizio del 2019 sono stati sempre prodotti e pensati con un unico filo conduttore che era appunto un unico documentario che guardasse complessivamente il ruolo dell'Italia nell'importazione di queste materie prime a rischio deforestazione. Allora, hai suddiviso in capitoli il lavoro, analizzando un po' tutta la filiera in alcuni settori, quello del legname, quello della carne, quello della pelle e quello della soia. Guarda, questa divisione anche se l'ordine non è casuale, perché come si racconta nel documentario è sostanzialmente il percorso standard con cui avviene la deforestazione, in questo caso in particolare in Amazzonia. Il primo passo appunto è il legname. Succede che viene tagliato legalmente o illegalmente del legname all'interno della foresta e cominciano a crearsi dei varchi e delle strade che si inoltrano all'interno della foresta. Lungo queste strade avviene la prima degradazione della foresta, quindi vengono tagliati e viene tagliato il legname, di cui l'Italia scopriamo nel film essere un importante importatore per via dell'industria del mobile. Una volta che si aprono queste strade che entrano dentro la foresta, che viene pian pianino pulita la foresta per produrre legname, in genere il passaggio successivo è che c'è qualcuno che trova l'occasione per appropriarsene, perché queste sono terre di nessuno, o meglio, sono considerate e percepite in Brasile come terre di nessuno. La cosa più semplice per fare questo passaggio è metterci delle mucche a pascolare. E quindi il passaggio successivo sono i pascoli, che sono in realtà il primo vero motore di deforestazione in Amazzonia. Sostanzialmente quel che resta della foresta viene bruciato, viene tagliato, viene raso al suolo, viene sostituito da dei prati e nei prati ci vengono messe delle mucche in maniera che chi ha messo quelle mucche può dire: io sono lì a fare agricoltura da 30 anni, quella terra è mia, e diventa proprietario terriero. Sostanzialmente funziona così. Quindi dal legno, la carne e la pelle, perché la pelle anche è un importante prodotto di questi pascoli, e sempre viene dal Brasile, ed è un fondamentale capitolo del Made in Italy, la pelletteria, ma anche i mobili di pelle, anche l'automotive, tutte le produzioni legate alla pelle, e la materia prima è sempre legata a questi pascoli. Sono molti soldi che l'Italia manda ogni anno, parliamo di 300 milioni l'anno che l'Italia manda ogni anno in Brasile, a chi fa questo, sostanzialmente alle multinazionali che sono dietro a questo tipo di produzione, sostanzialmente foraggiando questo fenomeno. E poi l'ultimissimo passaggio è quello che riguarda la soia, perché la soia in Sud America in particolare è diventata un qualcosa che sta monopolizzando i paesaggi, in qualsiasi tipo di ambiente, che sia l'Amazzonia, che sia il Cerrado, che sia il Chaco in Paraguay. Tutto quello che c'era prima, quindi la vegetazione ma anche la fauna, sta sparendo per lasciare spazio a queste distese desertiche di soia. Ed è appunto l'ultimo passaggio, perché spesso su quei stessi terreni che sono inizialmente stati deforestati, questo nel caso dell'Amazzonia o anche del Chaco, per far spazio ai pascoli, quando non è più adatto il terreno per la produzione di pascoli, o comunque i pascoli si inoltrano ancora più dentro la foresta, il terreno inutilizzato viene riattivato per produrre soia. Quindi ecco, i quattro capitoli rispecchiano un po' questo pattern standard che riguarda un po' come la foresta diventa terreno agricolo a disposizione non della comunità locali o della produzione di cibo locali, ma di multinazionali che producono commodity, che sono appunto le materie prime che sono al centro di questo documentario, che sono il motore invisibile del Made in Italy, e non solo, di molte produzioni dell'Occidente. Io mi concentro in quello che fa l'Italia, appunto perché c'è un po' questa contrapposizione fra Made in Italy, che è un'etichetta molto bella, che ci fa pensare sempre alla tradizione, alla qualità dei prodotti, alla filiera corta, e in realtà spesso e volentieri è un'etichetta vuota, perché dietro al Made in Italy ci sono appunto prodotti che si basano completamente sull'utilizzo di commodity e arresti di deforestazione importate da oltreoceano. Questa tragedia della deforestazione coinvolge diverse eccellenze italiane. Uno dei problemi è la mancanza di informazione in tal senso. Assolutamente sì, in realtà infatti al centro di questo lavoro sostanzialmente c'è il marketing, appunto Made in Italy, oppure tante etichettature che vengono utilizzate come indicazione geografica protetta. In realtà parliamo sempre di marketing, cose che etichette Made in Italy su tutto, che ti fanno pensare che stiamo parlando di prodotti che sono territoriali, che hanno una filiera corta, che ti garantiscono. In realtà un consumatore medio, ma anche un consumatore abbastanza informato, difficilmente sa che sta comprando deforestazione quando sta comprando una cucina, perché non c'è scritto sopra che è una cucina con degno certificato, e non c'è scritto quasi mai. E lo stesso quando stai comprando un prosciutto o un altro prodotto, può essere la mortadella, che appunto ho citato nel film, e che ha magari un'indicazione geografica protetta, non penseresti mai che stai comprando qualcosa che ha a che fare con la deforestazione, e in realtà stai comprando un prodotto che si basa sull'importazione di soia, che è utilizzata per fare mangimi, che sono il motore di questo tipo di produzione, ad esempio, perché fondamentalmente la mortadella, come si vede nel documentario, viene da i più intensivi allevamenti che si possono trovare in Europa, non solo in Italia ma in tutta Europa, in Est Europa soprattutto, dove nascono questi mega allevamenti da decine di migliaia di capi, e che sono una delle principali destinazioni di questa soia sudamericana, perché l'allevamento intensivo appunto si basa sull'utilizzo di soia al posto delle cose che mangerebbero normalmente degli animali in un allevamento di piccole dimensioni o in un allevamento oppure in natura. L'allevamento intensivo sostanzialmente si basa su il nutrire questi animali con grano, cereali e soia. Soia è l'apporto proteico, insomma, diciamo che il nesso tra soia e allevamento intensivo è radicale e proprio fondamentale. L'uno dipende dall'altro, l'importazione di soia dipende dall'allevamento intensivo, l'allevamento intensivo dipende dalla soia. In chiusura, Francesco, il tuo documentario comincerà il suo percorso. Per saperne di più, ci dai dei riferimenti web? Assolutamente sì, c'è un sito che si chiama www.deforestazionemadeinitaly.it dove si può vedere il trailer, via via pubblichiamo alcuni dei festival dei posti, o delle situazioni dei posti dove sarà proiettato il film. C'è anche un riferimento per organizzare una proiezione, che è un indirizzo email a cui scrivere nel caso possa interessare organizzare una proiezione, perché comunque non è un progetto a scopo di lucro, quindi a noi interessa far girare il più possibile il film, quindi siamo disponibili a proiezioni gratuite, anche perché appunto per chiudere, purtroppo mentre facciamo il film l'argomento è diventato ancora più d'attualità, nel senso che oggi la deforestazione è veramente uno dei principali mali del pianeta, è uno dei principali motivi per cui c'è un'emergenza climatica in corso. Insomma, vogliamo far girare il più possibile questo film perché pensiamo che possa essere un modo per capire meglio noi stessi qual è il nostro ruolo in questo fenomeno della deforestazione e anche quale potrebbe essere in positivo, nel senso che l'Italia veramente avrebbe le carte per cominciare a proporre un sistema basato su presupposti completamente diversi, insomma il Made in Italy fosse riempito di contenuti reali, quindi veramente filiera corta, dieta mediterranea, l'abbandono dell'abuso di alcuni tipi di alimenti, insomma potrebbe davvero essere un modello internazionale di sostenibilità, però finché non ci poniamo il problema non possiamo neanche sapere qual è il nostro ruolo, la nostra responsabilità e non possiamo agire urgentemente come i tempi ci chiedono. Ricordiamo il documentario Deforestazione Made in Italy, un saluto e un ringraziamento al regista Francesco De Agustinis. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a te Federico, grazie davvero, è stato un piacere, grazie.